24 mattino. Minuti, ancora una buona giornata, un saluto questa mattina ancora da Anna Migliorati. Alessandro Milan tornerà con voi come sempre lunedì, ma puntuali ci sono i giornali in edicola e quindi la nostra rassegna stampa. E rassegna stampa che si apre con quello che è un po' il titolo tormentone oggi su tutti i quotidiani, vale a dire dedicato alla politica, l'ennesima sfida tra Letta e Renzi per definire chi guida questo centro-sinistra, chi guiderà il prossimo governo, carrellata di titoli. A cominciare dal Corriere della Sera, la stretta di Renzi su Letta, giochi a carte scoperte, il premier dice bisogna fare squadra, il faccia a faccia sarà la direzione del PD, il 20, chiarimento decisivo, se decisivo sarà. Così il Corriere della Sera, la stampa, governo, Renzi prende tempo e ancora il Messaggero, Renzi a Letta, c'è anche il voto. La Repubblica, Renzi apre al dopo Letta, decidiamo il 20 se cambiare schema, e il premier che dice io non galleggio. Renzi licenzia Letta, preavviso di sfratto al governo di 15 giorni, così la lettura del Giornale, che parla questa mattina di sinistra spaccata. L'Unità, governo PD fermo al bivio. Il Manifesto, come sempre accade, un gioco di parole, 20 di crisi, il 20 ci sarà questo incontro, decidiamo se cambiare schema o andare al voto. Libero, Renzi da Letta 2 settimane, anche troppe, scrive un pungente Maurizio Belpietro. L'apertura di Libero in realtà questa mattina è su un'altra notizia, come bloccare i rincari sulla casa, una serie di sentenze della Cassazione che boccia la revisione degli estimi. Il Secolo XIX, anche qui governo Renzi sfida Letta, governo e riforme, 2 settimane decisive per l'avvenire. La vede un po' diversamente il Giorno, a licenziare Letta e qualcun altro, ma Letta comunque sempre sulla via del licenziamento. Squinzi licenzia Letta, scrive questa mattina il Quotidiano Nazionale. Confindustria risposte o andiamo da Napolitano. Squinzi, che vi ricordo ha parlato ieri mattina proprio a Radio 24. Renzi, Grillini venite da me, Europa, Alfano in lista con Berlusconi, le grandi manovre interessano il Fatto Quotidiano. Parlando davanti all'assemblea del PD e davanti a Letta, il segretario evoca la possibilità di una nuova maggioranza e lancia l'appello ai prigionieri politici di Grillo, così scrive il Fatto Quotidiano. Con Confindustria aggiunge che loda il Movimento 5 Stelle, che bravi per quella norma su Equitalia, così il Fatto Quotidiano di quest'oggi, che il taglio lo mette in maniera un po' diversa. La notizia c'è anche sul Sole 24 Ore, sfida Renzi Letta, gioca a carte scoperte, il premier non galleggio, anche qui l'appello di Squinzi, al governo chiediamo fatti concreti. Il presidente di Confindustria dice a Letta, continueremo a sollecitare soluzioni ai problemi del paese. L'apertura del Sole 24 Ore di questa mattina è però sulla BCE, con Draghi che dice tassi fermi ma BCE in allerta, Francoforte lascia invariato il costo del denaro fino alla riunione di marzo, la banca vuole più certezze però su crescita e rischio deflazione. Insomma, si sta a guardare, si sta ad aspettare, anche se il tema, dicevamo, è sicuramente quello dell'ennesimo confronto che ci sarà tra Renzi e Letta. Una staffetta verso il nulla, stando almeno a quanto scrive questa mattina sul Corriere della Sera Antonio Polito. L'ipotesi di ricambio, le riforme e il voto, l'editoriale del Corriere della Sera. Anche se Matteo Renzi avesse la classe di un Rivera, non è chiaro quale sarebbe il vantaggio di una staffetta Palazzo Chigi con Enrico Letta, che pure non ha lo scatto di Mazzola, scrive Polito. Si tratterebbe infatti di una manovra politica ad alto rischio, già vista a sinistra, perché non sancita da un voto popolare. È vero che neanche Letta ha l'unzione elettorale, ma tutti, Renzi per primo, hanno finora giurato che si trattava dell'ultima volta. Ed ecco, dice Polito, ecco perché si sta discutendo della legge elettorale, ma resta il problema dell'evidente stallo in cui è finita l'azione dell'esecutivo. Problema ogni giorno più serio. Una parte di responsabilità sarà certamente del pilota e dei ministri, ma anche il mago Dini riuscirebbe a tenere vivo un governo cui è stato tolto da mesi l'ossigeno politico, continua Polito, che conclude: il governo non ripartirà mai finché non ci sarà un nuovo accordo firmato dal PD e dai partiti della maggioranza. Questo contratto era stato giustamente rivendicato e anzi promesso entro gennaio dallo stesso Renzi. Siamo a febbraio, già si parla di marzo-aprile e così il governo soffocherà. Letta ha il dovere di dirlo e di porre chiaramente la questione di fiducia al suo partito. Deve davvero giocare a carte scoperte. La pensa così anche Antonio Polito, anche se il titolo è poi una staffetta verso il nulla. Una partita già vista, forse in molti lo dicono, i duelli senza fine flagellano la sinistra, scrive anche Pierluigi Battista sempre sul Corriere della Sera, e ne parla senza mezzi termini la Repubblica. È il giorno del giudizio, scrive Massimo Giannini, non serviva il genio della lampada per capire, abbiamo parlato prima del mago di Nì, ora ci mettiamo anche il genio della lampada, insomma potevamo dirlo anche noi, giusto per chiosare, non serviva il genio della lampada per capire che la difficile coabitazione tra Letta e Renzi non avrebbe retto alla prova dei fatti, non serviva la malizia dei disfattisti per immaginare che la pazienza del premier temporeggiatore non sarebbe stata compatibile con l'urgenza del segretario riformatore. Mosse nuove, mosse di volti nuovi, non sembra davvero pensarla così la Repubblica. Andiamo nelle pagine interne, pagina 4, scrive Filippo Ceccarelli, dietro al duello tra Enrico e Matteo rispunta l'eterna guerra tra democristiani. Eccoli lì, tornano di nuovo, entrambi hanno origine nella DC, lo stesso Renzi ieri ha ammesso la vicinanza con certe dinamiche dello scudo crociato. Ve lo leggo questo ritratto perché vi ricorderà davvero anni passati, quando Matteo Renzi è un po' stanco, come ieri sera sembra molto più democristiano di quello che è, lo è davvero parecchio, essendo non solo figlio di un democristiano, ma dello stesso babbo addestrato fin dalla più tenera età, povero innocente, a decifrare anche i pur minimi slittamenti che si andavano registrando attorno a De Mita, dalle parti di Forlani e perfino ai margini della corrente del Golfo. Quando Enrico Letta, continua Filippo Ceccarelli sulla Repubblica, d'altra parte si sforza di apparire più tranquillo di quanto sia realmente, come ad esempio nel momento in cui si è materializzato al Nazareno, l'innata sua democristianità è tale da conformare l'andatura con cui si è avvicinato al podietto, la postura presidenziale che ha assunto, nonché la sorvegliata disinvoltura con cui quest'altro nipote ha espresso pacatamente le sue considerazioni, così sfumate come ovvio da rasentare la più naturale reticenza. Insomma, il ritratto lascia davvero poco spazio all'interpretazione. Così sulla Repubblica di quest'oggi. E vi segnalo anche un'intervista a il braccio destro di Letta, marito della De Girolamo, vedetela un po' come volete, il lettiano Boccia, che dice: Enrico Corretto, non prendiamoci in giro, può andare avanti solo se il PD lo sostiene, e lui di queste vicende sicuramente ne ha sentito parlare e parecchio in questi giorni, pagina 2 della Repubblica. Ma tanto per dire che di novità a volte ce ne sono poche, di corsi e ricorsi invece ce ne sono tanti, andiamo a vedere questa mattina anche cosa scrive invece Libero, il giornale, cominciamo dal giornale prima, scusate, perché la vicenda riguarda ancora una volta la presidente della Camera Laura Boldrini, ma questa volta parliamo veramente di conti ben precisi, vale a dire i buoni pasti della Camera. Che succede? Buoni pasti d'oro dei deputati, alla Camera è sempre cuccagna, in pratica si continua a mangiare gratis, insomma mentre si va al vertice si decide cosa fare del governo, ecco che succede, i pranzetti della Camera, il menù rincara, vi ricordate, ve l'abbiamo raccontato anche noi, alla Camera, alla buvetta della Camera si mangiava con poco, sono stati rincarati i prezzi perché anche i deputati dovevano pagare, però eccolo, è arrivato il rimedio, il ticket del buono pasto, in molti lavoratori italiani ce l'hanno, ma alla Camera il ticket è da 21 euro al giorno, e c'è chi magari sta pensando in questo momento che con 21 euro al giorno ci mangia tutta la giornata. Ebbene, che succede? Succede che A Montecitorio si paga un buono pasto per chiunque si sieda alla tavola e al self-service. Per pranzo e cena al ristorante il buono pasto valeva nel 2012 19,36 euro quando furono serviti 52.000 pasti fra pranzo e cena al ristorante e 48.500 al self-service. Nel 2013 quella somma che si voleva ridurre invece è aumentata. Il costo medio del buono pasto per i deputati, giornalisti, parlamentari e gli eventuali ospiti lì invitati è stato di 21,44 euro. 21,44 euro solo il ticket. Allora, come dicevamo, forse qualcuno di voi starà pensando che con questo ci avrebbe fatto pranzo e pure cena. Allora, su questo vi lascio riflettere, una piccola pausa e poi le altre notizie. 24 mattino. I giornali, vi è piaciuto molto, ho visto il buono pasto da 21 euro alla Camera, ma ci sono anche molte altre chicche sui giornali questa mattina, oltre appunto alle grandi notizie, una delle quali è sicuramente l'apertura oggi dei giochi olimpici di Sochi. Abbiamo sentito prima anche la nostra Antonella Scott, che tra l'altro è già pronta a raccontarcela. C'è sicuramente la sfida sicurezza lanciata questa mattina anche dal presidente Obama, ne parleremo nei nostri GR. C'è sul Corriere della Sera la presa di posizione di Enrico Letta. È stata sollecitata da più parti. Il presidente del Consiglio italiano sarà tra chi andrà a Sochi. Altri capi di Stato e di Governo hanno deciso di non andare perché, come sempre, le Olimpiadi sono anche un fatto politico e c'è la questione dei diritti gay in Russia che sta animando il dibattito oltre alle vicende della sicurezza. Allora, Letta parla questa mattina. C'è questa lettera aperta sul Corriere della Sera. Perché ho deciso di essere a Sochi con i nostri atleti. Oggi sarò a fianco degli atleti italiani nell'inaugurazione dell'Olimpiade, una scelta che rivendico, non mi sottraggo ai dibattiti, meglio disertare per manifestare più esplicitamente o meglio esserci, questa è la lunga premessa. La verità è che Letta non entra moltissimo alla fine in quella che è la questione. Di certo dice che esserci, leggiamo, significa esprimere un appunto in una dimensione pubblica, la nostra concezione di libertà, di comunità, di rispetto dell'altro. Esserci non significa dismettere, ma anzi riaffermare il ruolo che l'Italia svolge. Anche di questo parlerò tra oggi e domani a Sochi con i capi di Stati di Governo, con loro e con quanti avranno la possibilità di valutare la possibile candidatura olimpica, tra l'altro a Roma 2024. Come è stato per Roma 1960 e Torino 2006, come deve essere oggi per Expo 2015, è indispensabile guadagnare credibilità. Insomma, Letta ne fa una questione di credibilità dell'Italia e anche una questione di decisione da prendere, perché se Monti, ricordiamo, disse no alla famosa Olimpiadi 2020 a Roma, del 2020 e 24 invece si torna a parlare. Letta sembra crederci e quindi dice: io ci sarò per lavorare per Roma 2024 con tutte le opportunità ovviamente del caso, e ci sarò per rivendicare il ruolo dell'Italia. Così la lettera del Presidente del Consiglio oggi sul Corriere della Sera. Trovate un po' su tutti i quotidiani di tutto su queste Olimpiadi. Oggi ci sarà la cerimonia di apertura. È cattivello come sempre il Fatto Quotidiano. Miliardi e giochi sporchi, scrive a pagina 12 il Fatto Quotidiano. Finora gli oltre 10.000 giornalisti accreditati si sono dedicati a tutt'altro, scrive tra l'altro, con un record di corrispondenti politici presenti rispetto agli eventi sportivi come forse mai prima. Di certo Putin si gioca la reputazione 30 anni dopo Mosca 80, con le cosiddette Olimpiadi invernali subtropicali, diritti gay, i calcinacci ancora in giro, i costi esorbitanti, corruzione, rischio terrorismo, insomma tutto quanto. La fortezza olimpica che Putin ha fatto costruire per allontanare ogni ombra di terrorismo, tra barriere di ferro, gate, metal detector, 40.000 uomini della sicurezza camuffati in leggiadre divise olimpiche, atleti e addetti vivono appunto segregati. Qualcuno l'ha chiamata Putingrad. E anche il Fatto Quotidiano dice: c'è anche Letta, la sfilata di oggi, il nostro paese farà la scelta di rigore, sfileranno solo atleti e tecnici. La sera spaghettata con il Presidente del Consiglio, che ha promesso di parlare di diritti umani e contro la legge anti-gay russa. vedremo che succederà. Andando a scovare tra i giornali, di sicuro Putin non la prenderebbe bene quel che ha deciso di fare un comune in provincia di Venezia, anzi il comune di Venezia per la verità. Saltelliamo un po' qua e là, i temi sono molti oggi e molte le curiosità, ne approfittiamo anche un po'. Fiabe gay distribuite dal comune alle maestre di Venezia, iniziativa delle delegata del sindaco alle discriminazioni, è stata nominata solo il 23 agosto scorso. Ebbene, cosa ha deciso? 46 favole per contrastare l'omofobia saranno lette negli asili nido e nelle scuole materne del comune di Venezia. Ci sono molte fiabe, ve ne leggo alcune: il grande grosso libro delle famiglie sulle diverse forme familiari, solo mamma, solo papà, due mamme, due papà, papà bis, storie di genitori che si separano, piccolo uovo disegnato da Altan sulla fecondazione assistita, c'è un po' di tutto, naturalmente è polemica, scrive il Corriere, e su questo ci si poteva scommettere, così come è polemica anche a Milano. Che succede qui? Qui ci sono le iscrizioni per le scuole e qui il termine genitore nei modelli di iscrizione è sparito. Via mamme e papà sul modulo che le famiglie milanesi useranno per iscrivere i propri figli alle scuole dell'infanzia, scompare la dicitura madre-padre. Al suo posto un generico genitore, motivo per non turbare la sensibilità delle famiglie omosessuali. Tanto per dire che dalla lontana Russia fino alle cose di casa nostra, di sicuro anche questo è un tema di cui si parla. Torniamo però ancora alle grandi questioni internazionali, anche quelle sui giornali di oggi, e andiamo sulla Repubblica. La Repubblica, anche qui dicevamo l'apertura è su Renzi, il taglio centrale, Olimpiadi scontro ONU-Russia sui diritti gay, perché queste sono di fatto le due grandi notizie che trovate un po' dappertutto, ma c'è anche un'intervista questa mattina sulla Repubblica. La sfida di Tsipras, batterò la Merkel, lei ci rende poveri. E attenzione, questo signor Tsipras non è tedesco, ma è greco, il leader greco che parla della mia Unione Europea, perché stiamo per andare a votare. Ebbene, la sfida è aperta, Germania contro tutti, potremmo quasi titolarla, e allora ecco questa nuova sfida lanciata dalla Grecia. Tsipras e la sfida di sinistra all'Unione Europea, la linea Merkel porta solo alla povertà, per batterla cerco alleati in Italia. Il leader greco sarà oggi a Roma per lanciare la sua lista. Quale lista? A Renzi e a Grillo si rivolge, chiederò una mano se dovessi rinegoziare nell'Unione Europea per conto di tutta l'Europa del Sud. Serve una conferenza europea come quella che del 53 cancellò gran parte del debito della Germania post bellica, dice il greco, che aggiunge: io una minaccia per l'Europa, certo, sono il rivale dell'Europa dei mercati e della diseguaglianza sociale. Allora questo signore che si chiama Tsipras, cominceremo a conoscerlo perché è candidato alla presidenza della Commissione Europea, si è candidato tra l'altro anche lui, è il leader del partito della sinistra radicale greca e secondo i sondaggi primo partito del paese. Oggi è in Italia perché sta cercando alleati anche da noi. Europa che però sentite un po' cosa scrive sempre la Repubblica. Siamo in vista di elezioni e allora cosa succede? Soldi ai partiti, scontro sui rimborsi per le europee. Stiamo per andando a votare, Napolitano ha detto attenzione, siamo un bivio per l'Europa, c'è chi cerca alleati per cambiare l'austerità, e intanto nel Parlamento che succede? Primo sì in Commissione al Senato la nuova legge sul finanziamento, è corsa contro il tempo, in aula solo martedì, il contributo dei privati scende e di nuovo scontro sui rimborsi per le europee. E si torna a parlare di quanto possono intascare i partiti da questa corsa alle europee. 7:39. Allora, ci aspetta tra pochissimo il nostro Mauro Meazza, come sempre. Tempo però per darvi un'altra notizia. Parliamo ancora di affitti d'oro. Affitti d'oro. Non ce li siamo dimenticati, ci sono anche questi, andiamo ancora a curiosare. Oltre che sulle prime pagine, nelle pagine interne dei giornali, la giungla d'oro degli affitti di Stato, scrive pagina 39 il Corriere della Sera. Il caso di Roma, 74 milioni ogni anno per le locazioni passive. Il Campidoglio ricava 27 milioni dai suoi alloggi, ma ne spende 21 per pagare i costruttori immobiliaristi la pigione di 4.800 case. Ma la giungla degli affitti d'oro di Stato è ancora più impressionante. Solo i ministeri sborsano 730 milioni. Chi paga di più è il Ministero dell'Interno, ha 5.816 contratti di locazione, e poi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne ha 1.189. Anche la Corte dei Conti, che bacchetta sempre giustamente per quello che sono i conti, è quella che ne ha meno, ma ne ha comunque 9. Il Ministero della Difesa ne ha 30. Insomma, gli affitti d'oro non mancano mai. Un saluto adesso, come ogni mattina, al nostro Mauro Meazza. Buongiorno. Buongiorno Anna, ma che piacere, temevo già la voce di Alessandro Milan, del campionatore. Hai visto che sorpresa? E invece che gradita sorpresa, buongiorno, buongiorno. Allora, sul Sole 24 Ore hai visto che abbiamo una graduatoria dell'attuazione, come dire, mancano 478 decreti da varare. 478 decreti. Sì, per completare le riforme servirebbero ancora 478 decreti, 149 di questi sono già scaduti. Comunque, insomma, poi nelle pagine del Sole 24 Ore si prende coscienza direttamente di questa, di questo difficile cammino dell'attuazione, che non è una novità, però insomma, quando poi si mettono i numeri in fila fa sempre effetto. È facile dire riforme, poi ha voglia a costruirle. Sì, diciamo che tra il riformare e l'attuare, eccetera, eccetera. Invece una cosa si è completata: il codice del consumo è stato rivisto con un decreto legislativo di correzione, ne parla Matteo Prioschi nella sezione di norme e tributi, ma la cosa importante che diventerà operativa a breve è che ci saranno due novità: un allungamento dei tempi per la restituzione dei beni, quindi da 10 giorni si andrà a 14, e poi che non dovranno esserci disparità tra chi paga in contanti e chi paga con moneta elettronica. Sai che alle volte, come dire, c'è la tentazione di scaricare sull'utente o sul cliente il costo della moneta elettronica. Ecco, questo intervento normativo del governo, che peraltro discende da una normativa europea, sancisce che non può più essere così. È stato varato ieri, tutti i particolari in norme e tributi, non in cronaca. Ma tu twitti, Anna, come fa Alessandro? Cioè, sei su Twitter spesso? Aia, no, ma pare che ormai stia diventando di moda spostarsi da Twitter. Vedi, io non sono mai entrata, così non devo neanche uscire. Ma deve essersi accorta anche la borsa, perché spiega Valsani nelle pagine di Finanza che, insomma, come dire, il titolo ha avuto un brusco calo. Le entrate in realtà sono andate bene, i ricavi sono andati bene, ma sono un po' aumentate troppo le spese. Devono fare un po' di spending review anche a Twitter, probabilmente, perché hanno, come dire, un eccesso di spese, anche probabilmente dato dalla quotazione, che li ha portati, come dire, a subire un contraccolpo, uno scivolone in borsa abbastanza pesante, più del 20% ieri. Ma se, insomma, se poi lo riferisci ad Alessandro, così lui che è un attento invece utilizzatore di Twitter, si potrà regolare. Sì, sì, è seguitissimo e mi bacchetterà per questa cosa, e io lo sento tutti i giorni: fallo, vai su Twitter, e vabbè, io non ci sono, non cercatemi. C'è un'altra notizia che mi ha incuriosito molto, Mauro. Boom di avvocati che hanno tenuto il titolo in Spagna. Il 92% degli avvocati iscritti nell'elenco degli avvocati stabiliti nazionalità italiana, ma l'83% ha conseguito il titolo in Spagna e il 4% in Romania. Questo è una rilevazione del Consiglio Nazionale Forense, il vertice dell'avvocatura, perché in ossequio alle direttive europee è possibile, come dire, prendere il titolo, arrivare al titolo in un altro Stato e poi chiedere di poter esercitare nel proprio Stato. È quello che è stato fatto da molti avvocati, aspiranti avvocati italiani che sono andati appunto in Spagna. Quello, c'è proprio un business anche di questo andare a sostenere l'esame altrove e poi rientrare. Chiaramente l'avvocato stabilito, così si dice bene, sta a significare che non ha superato l'esame nel paese di provenienza, ma opera qua come se fosse un avvocato proveniente da un altro stato. È una prassi che si è appunto molto diffusa, nel senso che, come riferiamo dai dati del Consiglio Nazionale Forense, c'è una grande quantità, ormai diverse migliaia di avvocati che hanno preso questa strada. La strada per la Spagna. Una strada per la Spagna o per la Romania, che poi riporta però in Italia. E hai visto invece come stanno preoccupati quelli delle infrastrutture, visto che adesso dovrai mandare il traffico, mi immagino. Sì, ci siamo quasi, abbiamo pochi secondi. Perché allora dopo, quando si fermeranno, arriveranno a un'edicola, eccetera, troveranno su Imprese Territori il lavoro di Marco Morino, che segnala come le infrastrutture nella zona nord-ovest dell'Italia siano veramente vicine alla paralisi. A rischio paralisi. Rischio paralisi, sì, con un tanto di cartina e spiegazione sul perché alcune opere essenziali appunto sono ferme o rischiano di fermarsi, con gravi ripercussioni, soprattutto sul traffico, ecco appunto, il traffico. Il traffico, ce l'ha già annunciato il nostro Mauro Beazza, ormai sei più che di casa. Grazie a lunedì con Alessandro Milan, il traffico e poi ancora i giornali. 24 mattino. E allora torniamo sui quotidiani di questa mattina con la mazzetta quotidiana, ma non la mazzetta dei giornali, la mazzetta nel senso di mazzetta di corruzione, perché anche oggi un altro giro c'è, un'altra storia c'è, la leggiamo, anche questa l'ha trovata su molti giornali, dalla prima pagina del Messaggero. Le mazzette questa volta girano all'Agenzia Spaziale Italiana, che finisce nei guai, tango e viaggi in California, indagato il presidente. E il viaggio in California da 1.100.000 euro, l'assunzione di un ballerino di tango al Centro Italiano Ricerca Aerospaziale, la mazzetta su una carta di credito ricaricata e la consulenza alla psicologa. Alcuni episodi che riguardano l'Agenzia Spaziale Italiana. Chissà se la psicologa serviva anche per il ballerino, un ballerino consulente dell'Agenzia Spaziale. Ecco la mazzetta di oggi, possiamo anche chiamarla così, è il titolo anche questo del Corriere della Sera, un ballerino consulente dell'Agenzia Spaziale. Italia che intanto perde pezzi, ma nel vero senso della parola. Vi abbiamo raccontato di tutto, del caso Fiat. Se qualcuno tifa Ferrari o compra una Ferrari, tra un po' potrebbe anche dire gli olandesi della Ferrari, perché andiamo sulla pagina del giornale, anche un pezzo di Ferrari in bocca alla strada estera, scrive oggi il giornale. Fiat Chrysler ha trasferito il marchio in Olanda, e questo ormai lo sappiamo, ma se andiamo a leggere almeno quello che scrive oggi il giornale a pagina 9, l'orgoglio italiano, già messo a dura prova da recenti dolorosi addi, precipita ai nuovi minimi. Anche la Ferrari sarebbe pronta a trasferire in Olanda il marchio, mentre gli stabilimenti per ora resteranno dove sono, ma la casa automobilistica potrebbe scorporare il marchio in una società e potrebbe trasferirlo nel paese che ha la tassazione più vantaggiosa. E allora un giorno forse dovremmo dire l'olandese Ferrari. Sulle prime pagine dei quotidiani ancora anche la questione sicurezza, i video questa volta, ancora una volta da Milano, dove già si parlò, ricordate, del caso Niguarda. Ora c'è il video che arriva dalla stazione centrale, all'assalto con la mannaia in stazione, arrestato un algerino che ha aggredito con una mannaia da macellaio di 30 centimetri un tunisino di 39. La scena è stata registrata da alcune telecamere di sorveglianza e ovviamente si discute ancora di sicurezza, così come si discute invece a Napoli di un'altra vicenda, ce la racconta in questo caso la Repubblica, del nigeriano, di un altro video shock, quel famoso video girato da un passante con il telefonino, con l'iPad, mentre una persona veniva aggredita e solo questo nigeriano è corso in aiuto. Io e lo scippatore amo Napoli, dice, ma ora ho paura. Questo invece sulla sulla prima pagina della Repubblica. Altre curiosità, altre notizie da segnalarvi, abbiamo ancora poco tempo ma forse ce la facciamo. Andiamo sulla prima pagina della Stampa. Innanzitutto si parla di Coca-Cola in cialde come il caffè. Questa è l'ultima novità. Dall'anno prossimo sarà possibile produrre in casa la bevanda con le bollicine, perché la Coca-Cola, che la vede lunga, ha acquistato il 10% di una società che si chiama Green Mountain Coffee Resources. Insomma, è un gigante americano del caffè in capsule, un'operazione da 1,25 miliardi di dollari, ma l'obiettivo è portarsi in casa chi produce le cialde, perché addio altro che bottiglietta di vetro o di plastica, la Coca-Cola arriverà anche quella nelle cialde, ce le faremo in casa. Altra curiosità, ma forse un po' meno curiosità, il caso che segnala questa mattina la Stampa: primo passo per il rientro degli scienziati, cervelli fuggono all'estero, l'abbiamo già detto più volte. Ecco cosa scrive Giovanni Bignami: colpo grosso del governo a favore della ricerca. Ebbene, volete sapere qual è questo colpo grosso? Incassata pochi giorni fa in Consiglio dei Ministri l'approvazione del Programma Nazionale della Ricerca, il ministro Carrozza ha nominato e subito fatto lavorare un comitato di esperti per la politica della ricerca. Il primo argomento affrontato è molto significativo, scrive Bignami, sulla base di rose di nomi indicate dagli enti di ricerca decidere quali esperti chiamare per alti meriti scientifici su posizioni finanziate ad hoc. Insomma, attenzione, attenzione, c'è il nuovo comitato di esperti, questa volta per andare a vedere quali sono il cervelli all'estero che dovremmo far rientrare in Italia. Intanto chiamiamo degli esperti e facciamo l'ennesimo comitato. La Stampa questa mattina, il caso lì per il rientro degli scienziati. 7:53, abbiamo pochissimi secondi, siamo di corsa, di corsissima, attenzione tutti voi che siete in corsa perennemente, vi voglio qui ancora alle 8:20, perché proprio di questo, di come evitarlo, forse parleremo più tardi, ma intanto, se proprio vi avanza ancora del tempo nella vostra giornata, prendete il Corriere della Sera, pagina 23, imperdibile, la metamorfosi del gabbiano da eroe letterario a incubo in città, una pagina intera dedicata ai gabbiani. Se proprio avete tempo, c'è anche questo. Noi di tempo ne abbiamo pochissimo, ne parleremo anche alle 8:20, subito dopo GR24.